24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Piacere un paese dove le riforme così importanti le fanno nel segreto totale personaggi di questo tipo, uno con una credibilità che sta a zero, che si tira le secchiate addosso di ghiaccio dell'Ice Challenge e poi mi taglia i fondi per la SLA, che mi dice con Berlusconi mai, ormai vede più Berlusconi della moglie, cioè io penso se fossi Agnese sarei geloso di Berlusconi. Chissà se Agnese è gelosa di Berlusconi. Per il deputato del Movimento 5 Stelle Di Battista ormai Renzi vede più Berlusconi che la moglie. Per la verità ieri Renzi era ha incontrato il premier rumeno, che si presenta ancora con le rispettive mogli, la moglie del premier, e c'era anche Agnese, quindi ieri sulle foto ufficiali che circolano pubblicate sui giornali Renzi ha visto Agnese. Berlusconi non risulta. A proposito dell'incontro di Berlusconi Renzi, la cosa più interessante la scrive il Corriere della Sera, dice: ma se fosse stata tutta una finta, vi giuro, un inciuccio, cioè si sono incontrati, secondo Verderami del Corriere, mica uno che sa le cose della politica in retroscena, si sarebbero incontrati per parlare di TV, giustizia, Quirinale, fingendo che fosse un incontro per la legge elettorale. Beh, vabbè, siamo veramente alle cose belle. Quindi forse l'incontro, ottavo incontro Renzi-Berlusconi, è stato tutto una finta, cari ascoltatori. Voi che sapete che oggi si conclude l'ottantesima settimana decisiva per la riforma elettorale, decisiva per l'abolizione delle province, ottantesima settimana che però finisce così in vano, senza grandi risultati, ma ci sarà sempre l'ottantunesima, dai. Che state facendo, cari ascoltatori? Scrivetecelo al 349-238-6666. State guidando, state lavorando, siete lì sotto le coperte, nel letto. Siete appena svegliati con gli occhi stropicci, vi trascinate per casa alla ricerca di un caffè, una brioche, un confortino, un'oliva. Il confortino di Tognazzi, te lo ricordo, il rinforzino di Tognazzi, in Amici Miei. Sono le 6:33 minuti, vogliamo aprire, caro Peter Bescapè, regia, il Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. Si ferma. Anche il ministro Boschi va a prendere un caffè e poi torna. Saluta anche Lorenzo Nespoli in redazione. Tra l'altro, ho scoperto una cosa fondamentale. Fondamentale. Attenzione, il ministro Boschi. Caro Lorenzo Nespoli, caro fratello, caro Peter Bescapè, caro fratello, è milanista! È milanista! Mi è sempre piaciuto il ministro Boschi, è uno dei ministri migliori della storia. Sentiamo un po' la voce del ministro Boschi, sentiamo un po', sentite che voce da milanista. Il 26 novembre la Camera dei Deputati voterà il Jobs Act, un successo quindi per il governo che ha chiesto e ottenuto una data finale certa, perché senti che le CLS come suonano. Aspettare. C'è urgenza di ripartire con l'economia nel nostro paese. Federico Novella è milanista. Eccoci, è milanista. Buongiorno. L'abbiamo scoperto. Lo so, stai scadendo nel feticismo, eh. È milanista. Senti che voce da milanista. Buongiorno, conduttore di Mattino 5. Buongiorno a voi. Sei in viaggio verso Mediaset? Sono in tangenziale. Com'è il traffico? Ma meglio dei giorni scorsi. Meglio di che? Meglio sì. Di che? Più che altro non ci sono quei 30 centimetri di acqua stavolta, giusto. C'è una tregua oggi e quindi insomma si circola abbastanza bene. Si circola bene. Settimana bene. Un po' sofferente. Un po' travagliata. Esatto. Caro Federico, sai che io ti devo presentare un uomo che ormai è diventato anche un volto televisivo, ormai lo stiamo per perdere, è il nostro incredibile Vincino. Vincenzo, come stai, Vincino? Eccoci qua. Ma a che ora sei andato a dormire ieri? No, praticamente no, mai dormito. Non hai mai dormito. Ieri Vincino è apparso ad anno 1. Apparso, là faccio praticamente, sono il temperamatite di Vauro. No, come il temperamatite di Vauro? La spalla ufficiale, quello che gli aggiusta i pennini, i tempere, le matite, messo là accanto il mio posto nel sidecar. Sono entrato con un sidecar. Con un sidecar? No, io scusa, mi sono. No, aspetta, questa me la sono persa perché sì. Sono andato a dormire, lo confesso. Ma no, in che senso? No? Sei... Allora, ieri è iniziato anno 1 di Giulio Innocenzi, che salutiamo con grande affetto. So che ci ascolta sempre, non stamattina, non soprattutto alle 6:30. Però, che è successo? Sei entrato in sidecar con Vauro. Io e Vauro siamo entrati con un sidecar del 1934, russo. Ah, proprio suo? È suo? Tutto russo, sì, assolutamente. Con i caschetti da come si chiama? Da cararmatisti russi, no? Da cardisti russi. E siamo siete entrati. E quindi basta, Vincino ad anno 1, vai in TV, capito Federico? La TV, tu conosci la TV, Federico? Sì, sì. La TV. Ma è giustamente, mi sembra il posto giusto per Vincino, ma è, tipo cosa fa? Fa il temperamatite, ha detto. No, secondo me fa il contraltare politico di Vauro. No? Forse può essere. Vediamo tutto, no? Perché Vauro, cioè io amo la Boschi e Vauro sa, no. Poi è milanista, si sa. Io amo Renzi e Vauro no. Insomma, su tante cose litighiamo, però sui disegni, sulla satira e sul resto siamo d'accordo. Siete d'accordo, va bene. Allora, visto che hai nominato Vauro, sentite qui Vauro che cosa ha detto a un certo punto, perché allora noi abbiamo parlato ieri, non è escluso che lunedì torniamo a parlare di questa vicenda delle periferie, delle grandi città, insomma, dove c'è grande tensione, soprattutto a Tor Sapienza, dove, parliamoci francamente, c'è stata una resa totale alla piazza, cioè, e poi che ognuno la pensi come vuole, adesso chiedo il vostro parere, però la resa totale alla piazza, nel senso che dicevano cacciate via questi stranieri, non li vogliamo più, e le forze dell'ordine e il prefetto e tutto hanno trasferito questi stranieri che erano in un centro lì che li teneva, li curava, sono richiedenti asilo, cioè, quindi c'è stata una resa incondizionata alle persone che hanno detto se no ci facciamo giustizia da soli, e poi bisogna capire dove si va. Comunque Vauro, sentite come ha arringato i giovani protagonisti di anno 1. Ci sono i giovani, una parla come Silvio e vorrebbe essere come Silvio, e l'altra è la Nazarina. Ma ai tempi nostri, giuro che eravamo giovani, ma noi ci siamo incazzati come bestie, hai capito? Come grilli, abbiamo rigirato il paese, ci hanno tirato le bombe per fermarci, c'è stato Piazza Fontana, Brescia, noi volevamo un paese diverso, avevamo la capacità di sognare, cazzo, incazzatevi! Oh, Vincino, tu lì gli tenevi un po' la spalla, di oh, calmati. Ti scoppia una vena, cioè cosa, fermati, no? No, a lui, no, io. No, no, nel senso a lui, sì, certo, fermati. Io cercavo di riportare la calma, no, in questa situazione qua. Ma che è vero, però Vincino ha ragione, però arrivano le femmine. Ah, sì, vabbè, ma aspetta le femmine, mamma mia, lui deve raccontare le cose, aspetta le femmine, che la gente non l'ha visto il programma. Ha ragione Vauro a dire incazzatevi, cioè i giovani di oggi sono debosciati. Ma avessimo avuto noi tutto quello che hanno che qua negli ultimi anni abbiamo visto, ha ragione questo qua 100 volte, insomma. Ma noi avevamo dei governicchi così, tutti molto grigi, così, un'Italia insopportabile, no? Giovani incazzati. L'abbiamo smontata, abbiamo fatto un'Italia ancora più insopportabile. Questo è stato un disastro, abbiamo fatto. Va bene. Non lo so, lo chiediamo anche a un giovane, uno che è giovane tra noi vecchi, abbiamo il vecchiaccio, cioè Vincino, io sono di mezzo e c'è Federico Novella. Sono... Sì, ancora per poco, giovane però. Ancora, no, vabbè, dai, non ti abbattere, che c'è anche un ascoltatore che mi scrive che sto guidando in tangenziale est, quindi se puoi incrociare Novella magari a debita distanza. Sono vicino, se vogliamo incontrarci in un autogrill, vediamoci, insomma. Ecco. No, ma guarda, per carità, sicuramente i giovani di qualche tempo fa avevano una forza per reagire, forse un po' più alta di quella di oggi. Oggi sono un po' tutti rassegnati, però quando si dice i giovani si devono incazzare, cosa si intende? Che dovrebbero fare i giovani? Non lo so, evidentemente si lamenta del fatto si lamenta del fatto che è una generazione che ha avuto, che ha un po' tutto la pappa pronta, ecco, dai, questo è proprio da vecchiaccio, la dico così, e quindi invece Vauro, invece Vincino, per cosa vi siete incazzati? Cosa avete conquistato che i giovani oggi danno per scontato? Dai, dimmi una cosa, Vincino, per cosa avete combattuto? Allora, uno, il sesso era terribile prima di noi, praticamente. Va bene, il sesso va bene. Adesso ringraziamo Vauro che ci ha dato la libertà sessuale, va bene. Okay. Esattamente, abbiamo avuto la libertà sessuale, che poi dopo abbiamo fatto pure il divorzio, quindi il divorzio. Un sacco di cose, un'università molto più sciolta, prima c'erano i baroni e ora invece ci sono. Adesso no, i baroni. La fantasia al potere, l'abbiamo avuta, no, questi ultimi anni più di fantasia al potere. La fantasia al potere. Quindi vabbè, Federico Novella, sesso. Abbiamo lottato contro l'imperialismo americano. No, problema qual è? Che quei giovani lì, quelli che hanno fatto il 68, adesso, come dire, vivono di rendita a spese dei giovani. Bravo! Pronta non esiste. Guarda che i giovani non sono mai stati così male come oggi. Bravo, guarda, caro Vincino, guarda che non lo dice Federico Novella e non lo dico io che applaudo. Anche Sergio Rizzo, nell'ultimo suo libro, quello sui privilegi a vita, eccetera, lo scrive: nessuno ha il coraggio di dire che è quella la generazione del 68, quella dei privilegi a vita. Avete combattuto e avete conquistato delle cose, non le mollate più. Perché? Perché si nasce rivoluzionari e si muore borghesi. È così, ragazzi. Alle 6:42 minuti Federico Novella sta spillando delle perle. Come Morgan se ne va, guarda, lascio e me ne vado. Te ne vai dopo questa. Non può essere. È una provocazione troppo forte. È la verità. Dai, la verità fa male. Con le dovute eccezioni, per carità. Immagini da raccontare. C'era questo enorme corteo. Poi a poco, paf, uno saliva e occupava la direzione di una cosa. Un altro saliva e si andava. Ve la siete tenuta a vita. Però eravamo dei lottatori, no? E quindi per scardinare non so, da Rema, no? Chi era il più cretino dei ragazzini nostri? Da Rema, da giovane, era proprio tutti quelli di lotta continua, gli davano boffette e lui stava al suo posto. Mi racconto da Pisa, che proprio era ovviamente, insomma, non gli davano mai la parola. E comunque avete conquistato queste cose, non le avete più mollate, questa è la verità. Inventare Renzi. Ma che c'entra Renzi? Fammi dire questa cosa. Allora mi scrive Tonio dalla provincia di Cremona, dice che sono a correre. C'è Claudio da Roma che mi chiede se è tornato Marione Adinolfi dal Canada, perché diceva che è emigrato come gli orsi polari. Si vergogni Claudio da Roma. Comunque si sta facendo la barba. C'è chi si sta inzuppando una fetta di panettone e caffè latte come Fabrizio. Vergognati. E vabbè, chi guida in tangenziale est, l'abbiamo detto. Tiziano d'Aprilia torna a casa dopo il turno di notte, vai a dormire. Tiziano, sono arrivato a un certo punto durante il programma le Femen. Tu hai presente, Federico Novella, queste ragazze che vanno in giro un po' biotte, come si direbbe a Milano, cioè mezze nude, per manifestare contro la qualunque, caro Federico? Sì, esatto. Hai mai fatto irruzione lì da Federica Panicucci e te, magari? No, se fosse successo me ne sarei accorto. Possiamo dare un'idea alle Femen? Andate un giorno, magari fate un'improvvisata mattino 5 alle... Va bene, noi siamo qui, vi accogliamo con piacere, facciamo parlare tutti. Vabbè, a un certo punto danno uno, irrompono, ma adesso dai, Vincino ci dirà, era tutto organizzato ovviamente. No? Vabbè, comunque... Va spettacolo meraviglioso. Nude. Siamo passati proprio... parliamoci chiaro. Al varietà. Siete tornati al bagaglino, con le tette di fuori a danno uno. Eccole qua, le Femen... 25th of November, peccato non si vedano, il Papa to speak in European viene Parliament, a parlare al Parlamento Europeo a Strasburgo in Francia. This is a direct attack on e questo è un attacco diretto alla laicità, alla parità, perché il Papa va a parlare, immaginate le nude, tra chiesa, cioè adesso voi le sentite così, ma nude like us. Loro sono le femmine. Le femmine. Giulia, io devo lasciare perché io sono stato invitato per una trasmissione nel quale avrei dovuto confrontarmi con un sindacalista come Landini. Non sono venuto ad una trasmissione dove si offende la Chiesa Cattolica, si offende il Papa. Con le tette di fuori, peraltro, Vincino. Questa è stata una reazione dell'imprenditore che era lì. Io devo dire, là, quelli avevano scritto, dice, là, Dio non è un mago, il Papa non è un politico. Come di cose normali, di buon senso. Ho capito, ma ha detto, questo ha visto il Papa attaccato da delle donne nude, con le tette di fuori. Come dire, no, ma il Papa poi si è divertito molto, c'era là la televisione tutto là attaccato, assolutamente, no? Poi abbiamo parlato tutta la sera, io sono ancora a Cinecittà, Ah, sei ancora lì? Cioè, sei uscito dallo studio? Sto parlando qua con queste ucraine stupende, qua che tutta la notte a chiacchierare. Me le vedo, Federico, quelle le femmine, cioè Vincino ha passato la notte poi con queste femmine a chiacchierare. Il famoso discorso sulla libertà sessuale. Appunto, la libertà sessuale, ci avete dato le femmine voi del 68, questo ci avete portato. Questo è il risultato. Le femmine ci avete dato, ecco le vostre battaglie per la libertà. Federico, vai avanti, dai. È stato un blitz improvviso questo qua, perché me lo sono perso. Ma poi no, ma è stata chiaramente una roba da spettacolo organizzata. Io non volevo dirlo, l'hai detto tu. Ma no, ma l'ha detto anche Vincino, praticamente. Adesso così lo facciamo licenziare subito, ha fatto una puntata e lo facciamo cacciare. No, c'è un contratto assolutamente, no, per 6 puntate raddoppiabili. No? Ah, 6 puntate raddoppiabili. Perché raddoppiabili? No, dipende. 6 puntate sole, no, dai, non raddoppiabili. Cioè, stai facendo praticamente i 3 mesi di prova. Facendo i 3 mesi di prova, uno di questi qua da precario come tutta la mia vita. E poi vediamo se ti comporti bene, se ti rinnoviamo. Anno 1. 24 mattino. Ilan, sei quasi perfetto. Solo un difetto. Il cognome tuo sta lontano dalle rime. Fattolo cambiamo. Se figli Berlusconi, almeno fa rima con Fresconi. Ciao Milan! Amila, che ti strilli la mattina così presto, che ti strilli! Ah Milan, ma come non sai chi è Pollon? Pollon è una dea! Una dea! La figlia del dio del sole! E dai! Io mi chiedo, se la legge non ammette ignoranza, ma perché mai sono sempre gli ignoranti a farle? Milan, facce di cartone! Ho sbagliato, scusa, lo volevo dire a Cruciani e a Parenzo. Allora, il sindaco di Roma si è raccomandato a tutti di stare a casa. Perfetto, l'ufficio non mi dà il giorno, ha detto che mi devo prendere le ferie. Allora, siccome sono un bravo cittadino, ho alzato il telefono, ho chiamato il mio dottore e gli ho detto che sto male, ok? Perché le ferie sono fatte per andare a spasso, non per stare tappato dentro casa. Perché l'amministrazione non capisce un cazzo, non è in grado di risolvere i problemi. Al primo goccio d'acqua si allaga tutto. Milan, non hai le palle per mandarla in onda. Ah, siccome un giorno mi sembrava poco, mi sono fatto tutta la settimana. Ciao caro. Ah vabbè, Pollon, forse qua Federico Novella, Vincino figurati, Federico Novella forse mi può aiutare, io un addetto ha cantato la canzone di Pollon, io Pollon non l'avevo coperto, tu invece? Ma come, non ti ricordi Pollon? Pollon, vedi. È una delle pietre miliari dell'animazione degli anni Ottanta, scherzi. Ma io sono più degli anni, no vabbè, effettivamente sono del 70, quindi anni 80, beh anni 80 no, avevo 14 anni, cioè, obiettivamente Pollon. Forse avevi appena finito di guardare Gattone Animato. Capisci a mezzo. Negli anni 40 animazione zero proprio. Zero, ecco vedi. Però ci avete portato col 68 l'animazione, i fumetti, i cartoni animati. A fare le caricature, professori, non ho mai smesso. Qualcosa di buono avete fatto voi. Ecco esatto Federico, una cosa buona che hanno fatto cos'è secondo te? Perché li abbiamo demoliti... Beh, diciamo che, allora, secondo me, per esempio sulla scuola hanno fatto dei danni. sulla, ecco, sì, ti avevo chiesto una cosa positiva, però ci arrivo. No, sul piano secondo forse dei diritti della famiglia, sai, quindi il divorzio, dai, il divorzio morto, quello sì, quello è stato comunque una modernizzazione. E così facciamo contento Vincino, va bene, e è scontento, è scontento Ferrara, la fortuna e tutti gli altri là, qua, le loro magico Pannella, assolutamente. Pannella che ho letto oggi sul giornale, attenzione, Pannella sta diventando, sta facendo una conversione religiosa. No, io non ci voglio credere. Addirittura, non, Pannella, non è possibile. Così, una laica conversione. Te lo vedi Vincino Pannella che ma negli ultimi... è stato molto mistico in un certo senso. No? Mistico di che? Sì, ha una sua religiosità dello civile. Non ma se si mangia modo, i preti a colazione, dai... Si mangia un prete a colazione. Assolutamente, però poi si fa le canne. Si fa le canne, questo non è non è antireligioso. Questo è per raggiungere il misticismo. Ah, per il si fa le canne, quindi il misticismo per quello. L'incenso che cos'è? Incenso e mirra che cos'è? Fatti una canna di incenso e mirra e vedi cosa vedi tutto. Gli angeli, diciamo che a catechismo non ti insegna. No, esatto, hanno portato oro, incenso e mirra i re magi, non è che era proprio, cioè dice, portavano le canne, tu stai dicendo. Sì, non erano da fumare, ecco, diciamo così. Cioè per te Vincino questo era il messaggio. I azzetechi là con come dire, quelli che la coca raggiungevano le divinità delle Ande, no? Il condor pasa. La droga. Bene. No, questo ci avete portato dal 68. No, ma gli spot alla droga, bravi, va bene. Allora, che vi devo dire politicamente, guarda, gioia di Giovanardi, è una gioia. È una noia mortale la politica. Due cose, vorrei un giudizio netto da Vincino sul ministro che tu più preferisci, cioè il ministro Alfano, che leggo sul giornale, dice forse molla la maggioranza. Ma che molla la maggioranza? Dove va? No. Ma non c'ha manco il 2%, gli hanno dato il 3, però il suo problema è come arriva al 3. Al 3%. Non ci arriverà mai. E vabbè, vedremo, non essere così pessimista. Sono pessimista, la realtà è questa, insomma, non è che... Non molla, viene mollato. Perché viene mollato. Renzi va dritta da lezioni, finisce la palla vecchia. Anche tu che pensi questa cosa. Pare che nell'ultima direzione del PD abbia fatto una gaffa dicendo quest'anno si vota. Volevo dire nel 2018 si vota. Sì. Ha fatto questo lapsus freudiano. Vabbè, noi qua dobbiamo fermarci. Vorrei capire da Federico Novella, che è quasi arrivata a Mediaset, la sbarra si è alzata? Sì, stavolta si è alzata. Ma un giorno che se arrivi in redazione, passaci Federica Panicucci, dille una sorpresa, ti passo Federica, ti metto un attimo qui con due amici e noi chiacchieriamo. Sì, sai cos'è? Che lei arriva qualche minuto più tardi. C'è una polemica in atto da parte di Federico Novella che dice la star... Panicucci fa la star. Ma accontentati di Rossella Brescia, quante ne vuoi? Certo, ma cosa c'entra? Ma io non sei mai contento. Sono mai contento. Ma di fronte alle belle donne, ma sì, tutte, va benissimo. Giustamente. Di che parli oggi? Di che parlate? Venerdì andiamo sulla cronaca, quindi grandi casi di cronaca, a cominciare da Elena Ceste e via via andando. Comunque, che registro per Mediaset, che Federico Novella ha fatto una polemica ufficiale per l'orario d'arrivo di Federica Panicucci. Ufficialmente, va bene. Chissà se lunedì la sbarra si alzerà. Grazie, buon weekend a tutti. Non c'è il calcio, dunque niente, saremo sereni e felici noi milanisti con la Boschi. Milan, quante chiacchiere che dite al mattino. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:19 minuti, cari ascoltatori, e l'80ª settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province sta per chiudersi. Con un nulla di fatto. ma come sempre quando è venerdì lo diciamo, c'è l'81esima settimana alle porte e chissà, manteniamo l'ottimismo. Intanto vi ricordo che oggi avremo ospite il ministro all'ambiente Gianluca Galletti, anche per fare un po' il punto dopo questi settimana, ma anche un mese scorso, situazione davvero tragica in Italia perché piove tanto, come sia mai possibile, chi lo sa. E poi parleremo di questa vicenda anche un po' scherzosamente, di questa panda rossa che ancora oggi esonda dai giornali, altro che fiumi. La panda rossa di Ignazio Marino, ma davvero un sindaco di Roma, il sindaco della città più importante d'Italia, rischia di cadere perché ha pasticciato goffamente alcune spiegazioni sulle multe prese per la sua panda rossa, che ripeto ancora oggi trionfa sui giornali, ormai è diventata il simbolo dell'ironia anche più graffiante. Ne parleremo alle 8.30, ora andiamo a leggere i giornali. In questo sì, se mi accenno anche il microfono magari poi si sente. In questo venerdì 14 novembre, tra l'altro vi voglio fare un annuncio, vi ricordo, siccome c'è Book City, l'iniziativa dedicata ai libri e alla cultura a Milano, se volete domenica alle 13, se vi va, sarò alla Borsa di Milano per fare una rassegna stampa con voi dal vivo. Ci incontriamo, parliamo, chiacchieriamo. Venite domenica alle 13 alla Borsa di Milano. Allora, intanto i titoli dei giornali. Il Sole 24 Ore apre così: Jobs Act, modifiche sull'articolo 18. È l'apertura anche della Stampa, che ha un'intervista a Matteo Renzi, al Premier. Jobs Act, pronti alla fiducia. E questo è un colloquio con Renzi, il titolo spiazza un po'. Pronti alla fiducia anche alla Camera. Per il Corriere della Sera invece l'apertura è sulla NATO, c'è un'intervista al segretario della NATO Stoltenberg, difenderemo l'Ucraina, la NATO risponde alla Russia. La vicenda però Jobs Act è anche per Repubblica, così cambierà il Jobs Act, accordo nel PD. Mentre il Messaggero c'è un annuncio, casa e canone Rai, si cambia. È sempre più vicina la proposta di mettere il pagamento del canone Rai nella bolletta elettrica, dell'energia elettrica, cari ascoltatori. Libero, l'Italia affonda, loro scioperano, sindacati fuori dal mondo. Mentre altri titoli, c'è il Fatto Quotidiano, lo Stato s'arrende ai fascisti, ed è il titolo che voglio leggere perché da qui voglio partire. Si parla di Tor Sapienza, vicenda che abbiamo trattato anche ieri. A Tor Sapienza si è deciso di sgomberare i minori stranieri che erano in questa Onlus Un Sorriso, cooperativa che ne gestiva la permanenza in Italia in arrivo, in attesa di una domanda che avevano fatto per la richiesta di asilo politico. In attesa della risposta erano lì, e sapete che questi sono stati i pretesti, comunque le scintille per far scoppiare una rivolta sociale. Sta di fatto che a Tor Sapienza hanno deciso di sgomberare i minori. I titoli sono proprio su questi, ma l'articolo, a parte la cronaca, gli articoli che mi interessano sono quelli che raccontano, come Carlo Bonini su Repubblica, i malumori della polizia. Il titolo del Fatto Quotidiano è questo: lo Stato si arrende ai fascisti. Il senso un po' è che trapela dal Viminale, dal Ministero dell'Interno, è proprio questo, cioè nervi scoperti al Viminale dopo la decisione del Comune. A sera Alfano, il ministro, convoca un vertice con prefetto e questore, spunta la mediazione, alla fine gli adulti restano, i minori vengono spostati, ma l'accusa anche proprio delle forze dell'ordine è questa: abbiamo ceduto alla piazza, abbiamo ceduto alla rivolta degli italiani, la rivolta di Tor Sapienza che mette a nudo, scrive Bonini su Repubblica, i nervi scoperti del Viminale, torna a illuminare, ammesso ce ne fosse bisogno, il solco di una profonda diffidenza e disorientamento che in un anno si è aperto tra il ministro Alfano e la polizia. Accade infatti che per una giornata intera il trasferimento di 45 minori del centro di accoglienza per migranti della cooperativa Un Sorriso venga vissuto dall'apparato come una resa ai malumori della piazza. E tra l'altro il Fatto Quotidiano invece, a pagina 2, con Alessio Schiesari, scrive: tra l'altro lo stupro, o presunto tale, da cui è partita tutto, la scintilla, è un mistero. Si parla delle versioni di Ambra, questa ragazza che qualche giorno fa, coda di cavallo, 28 anni, fuso sportivi lucidi, aveva detto stavo portando a passeggio il cane e un nero mi ha aggredita per stuprarmi. È stata un po' la scintilla da cui sono partite tutte le manifestazioni contro gli stranieri. Le contraddizioni però, scrive Il Fatto, emergono. La denuncia è presentata con 4 giorni di ritardo. Le accuse alla polizia che l'avrebbe prima manganellata e poi cacciata dal commissariato, dice questa ragazza. Ieri, secondo gli operatori del centro di accoglienza, la ragazza avrebbe ritrattato. Ora dice siano stati dei rumeni. Ambra e gli amici a un certo punto si presentano al centro con in mano un caffè. Era un gesto distensivo, ma un negro è uscito e ha dato una pizza in faccia alla ragazza. In realtà l'altra versione è questo: il caffè era soltanto il cavallo di Troia per tornare a litigare. Insomma, voi capite che in questo contesto ci sono anche le polemiche per il trasferimento di questi minori e le... il dire si è ceduto alla piazza. Tra l'altro Il Fatto Quotidiano titola: oggi arriva Borghezio della Lega, nei prossimi giorni Salvini, c'è Casa Pound che è in presidio fisso e insomma la situazione sociale è quella che è. Ma udite udite, cari ascoltatori, Claudio Scajola ce l'ha fatta. La casa a sua insaputa è stata venduta a sua saputa. 1.630.000 euro per vendere il mezzanino con vista Colosseo, racconta Il Fatto Quotidiano. Affare Scajola, ce l'ha fatta come aveva promesso, ha venduto la casa e ha guadagnato 1 milione perché l'aveva comprata a 610.000 euro, l'ha rivenduta appunto a 1.630.000 euro, 50.000 riferiti solo ai mobili presenti nell'appartamento. Alla fine, il 16 ottobre scorso, la moglie dell'ex ministro Scajola ha firmato davanti al notaio Paolo Becchetti l'atto di vendita dell'appartamento di primo piano con vista sui Fori Imperiali. Si è liberato del mezzanino. La plusvalenza è appunto 970.000 euro. E Il Fatto Quotidiano dice: ma ora che ne farà? Perché di recente in un'intervista al Corriere aveva detto venderò, cioè offrirò in beneficenza la eventuale plusvalenza. Ora Al Fatto Quotidiano aveva detto: sto valutando un gesto ancora più forte, ve lo dirò quando avrò venduto la casa. Il Fatto lo cerca, nel frattempo lui ha gli arresti disposti per la vicenda a Matacena, ma al telefonino risponde la voce registrata: non sono al momento raggiungibile. Beh, insomma, è agli arresti domiciliari, cioè, di fatto è un detenuto, quindi non è che può rispondere al giornalista del Fatto Quotidiano. Comunque, che farà di questa plusvalenza Scajola, che ha venduto la casa, la famosa celebre casa a sua insaputa? Chi lo sa, chi lo sa. Mentre Libero racconta la storia che è quella che vince oggi il premio Mani sul Volante per l'articolo che mi fa più incazzare di questa giornata, e lo so che ci saranno le polemiche, ma eccolo qui, Gianluca Veneziani, pagina 13. La favola gay all'asilo. In un asilo di Roma, scuola materna, dai 3 mesi ai 3 anni, hanno distribuito la storia, piccola storia di una famiglia. Mary e Franci sono 2 donne, hanno solo gli ovini, mancava il semino. In Olanda c'è una clinica dove dei signori gentili donano i loro semini per chi non ne ha. Franci si è fatta dare un semino nella clinica olandese e l'ha messo nella pancina di Mary. Margherita ha cominciato a crescere e Margherita ora ha 2 mamme. Sono i suoi genitori. Favola distribuita all'asilo, scuola materna da 3 mesi a 3 anni. Ora non si tratta di essere né a favore né contro gli omosessuali, né a favore né contro le famiglie omosessuali, ma quest'articolo mi fa tenere le mani sul microfono. Tu che stai facendo, fratello? Niente, ammazzo il tempo. Milan, cagnas, randaggio dell'informazione. Ma chi è questo simpatico matto, il cagnastro randagio dell'informazione? Grazie, grazie caro ascoltatore, abbraccio anche te in maniera contenitiva per stile camicia di forza. Va bene, allora Il Jobs Act, ci sono passi in avanti, c'è un'intesa nel PD. Ricordate quando un mese fa avevano detto su Claudio, di Claudio Cerasa sul Foglio, ricordo, aveva detto che Renzi avrebbe fatto questa strategia, un po' di contentino, un po' di aperture, magari non mettendo la fiducia alla Camera, in modo da poter far dire anche a quelli della direzione del PD che qualche modifica è stata fatta e quindi hanno vinto loro. Lui stesso però incassa brevemente questo successo parlamentare, dunque abbiamo vinto tutti contenti, e così pare che sia andata, cioè qualche modifica al Jobs Act intesa nel PD. E certo ci sono i malumori della minoranza, ma tra poco vedremo Renzi come ne parla in un'intervista che ha concesso oggi alla stampa, e poi tutti contenti, non proprio tutti, perché per accontentare la minoranza del PD ora c'è NCD, cioè il partito di Alfano, che è il governo, che è sull'attacco. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, Jobs Act intesa nel PD, NCD all'attacco. C'è un'intervista sul Sole 24 Ore, tra l'altro, al ministro Poletti, a pagina 2, lo intervista Giorgio Pogliotti. Per le imprese, nuove regole da gennaio. Decisivo questo fattore tempo, perché le assunzioni possono beneficiare degli incentivi della stabilità. Si vuol partire dal 1 gennaio. Dunque, la minoranza del PD è sempre comunque sul chi vive. Bersani e D'Alema, secondo un retroscena di Repubblica, firma Giovanna Casadio a pagina 6, dicono riprendiamoci il partito. Tra l'altro, per fare questo sarebbero pronti, come racconta Libero, a comprare l'unità. Beh, questa non è male, come notizia. Franco Bechis racconta che D'Alema vuole l'unità per picchiare su Matteo, picchiare politicamente ovviamente. Pagina 5 di Libero, i liquidatori dell'unità hanno respinto tutte le proposte, tra cui quella dell'editore di Vero e Stop Guido Veneziani, di comprare l'unità, e allora avanza sempre più l'idea, aumentano i rumors sulla possibile formazione di una nuova cordata imprenditoriale che avrebbe alle proprie spalle la minoranza del PD, che fa riferimento a D'Alema, Bersani, per comprare l'unità. Vabbè, la minoranza del PD dunque è un po' sempre in, lo dico, fibrillazione, sì. Ma Matteo Renzi fa un colloquio con Federico Geremicca sulla Stampa, finisce in prima pagina e poi tutta pagina 3, e parla di varie cose, tra cui anche la minoranza del PD. Intanto Renzi parla dell'accordo con Berlusconi, il famoso patto del Nazareno. Qualcuno sperava e voleva che io dessi a Berlusconi una botta in testa per la legge elettorale, ma onestamente non ne vedo la ragione, perché ormai l'accordo c'è. E poi Renzi che dice, mi lasci dire una frase di rito, nessuno tiri per la giacca Napolitano, e qui confida il sogno Matteo Renzi dalle colonne della Stampa, sogno che Napolitano rimanga lì il più a lungo possibile, sogno che inauguri il prossimo Expo il 1 maggio, presidente resti ancora a lungo lì dove sta. Tra l'altro un Renzi che racconta in questo colloquio con la Stampa ha chiamato Romano Prodi per appianare un po' delle tensioni che c'erano, questo nei giorni scorsi, e poi si parla delle questioni principali, a cominciare dal Jobs Act, le modifiche sono state fatte, a me preme che la legge sia in vigore dal 1 gennaio, e certo c'è la minoranza del PD, sentite come la definisce Renzi, sono sempre gli stessi, una decina, molto divisi, anzi divisi al loro interno. Io vorrei tenere tutti dentro, naturalmente, se per questo serve non votare in direzione, perché altrimenti vanno sotto, o fare piccole modifiche al Jobs Act, volentieri. Il punto centrale è che la sinistra italiana diventa democratica all'americana, e questo per me è un valore storico. Poi risponde così al nuovo centrodestra, nuova formazione molto molto scalpitante dopo le modifiche al Jobs Act, ha chiesto un vertice di maggioranza Alfano, la risposta di Renzi è: il prossimo vertice di maggioranza si farà nell'autunno 2017. Del resto, l'altra sera, quando sono venuti in 20 a Palazzo Chigi, gliel'ho detto, ragazzi, non ci prendete gusto, questo è il primo vertice in 8 mesi ed è anche il penultimo. E poi ancora, si vota ogni 5 anni, è un gioco, è un'idea al quale io credo molto. È faticoso, certe volte la fatica diventa doppia ed è come andare in bicicletta in salita con un rapporto sbagliato, poco agile, duro, dispendioso. ed è proprio quello che dobbiamo varare, è per questo che dobbiamo varare una nuova legge elettorale, e poi parla anche della legge elettorale. Insomma, un Renzi, il titolo della stampa è questo: pronti alle modifiche, ma solo sulle troppe forme di lavoro a tempo e precario. Qualcuno vorrebbe che io desse una botta in testa a Berlusconi, ma non vedo perché. Un Renzi che quindi sistema anche la minoranza del PD, sistema la coalizione, il partito di coalizione NCD. Per il Corriere, Jobs Act, Renzi convince quasi tutto il PD. A proposito però dell'incontro con Berlusconi, l'articolo più interessante è quello di Francesco Verderami, oggi sul Corriere della Sera, l'ottavo incontro Renzi-Berlusconi. Verderami, pagina 8 del Corriere, e se fosse stato tutta una messa in scena? E questa è la domanda all'inizio dell'articolo. Se fosse stato un vertice fintamente sulla legge elettorale, ma in realtà hanno parlato di TV, giustizia, Quirinale. È questo tutto il retrofondo, il fondo di questo retroscena di Verderami, la realtà e le richieste inascoltate nel nuovo patto Premier Berlusconi. Cioè, le minoranze sospettano un copione scritto prima del vertice. La legge elettorale era una scusa per incontrarsi a parlare d'altro. Vabbè, siamo alla fanta politica. Però oggi c'è anche interessante un'intervista a Carlo De Benedetti, editore di Repubblica, ma fa un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Aldo Cazzullo. Il pretesto sono gli 80 anni compiuti da Carlo De Benedetti, che parla però di varie cose. Racconta anche del suo passato, le tangenti: sono stato l'unico ad andare da Di Pietro a dire mi assumo tutte le responsabilità e non voglio che alcun dirigente dell'Olivetti sia coinvolto. Sono stato una giornata a Regina Coeli, di cui ricordo la consegna dei documenti, l'ispezione anale. Ma le esperienze dure fan bene, a 10 anni ero in un campo di concentramento svizzero. E poi parla della politica, tipo la tessera numero uno del PD. Questa è una favola, non l'ho mai avuta, dice De Benedetti, mai avuto tessere. E su Renzi: riconosco di aver cambiato giudizio, di lui dissi di Berlusconi ne abbiamo già avuto uno e c'è bastato, ora penso che per quanto i due personaggi abbiano qualche punto di contatto mi sono ricreduto. Renzi è un fuoriclasse, innanzitutto è molto intelligente mentre Berlusconi è furbo. Gli altri motivi sono: non ho mai visto tanta energia in un politico, ricorda Fanfani degli anni 50, poi l'empatia, dicono che ricordi Craxi per decisionismo e abilità politica, Craxi però era antipatico. E poi Renzi è una spugna di economia, non sa molto, ma in un attimo assorbe tutto, così De Benedetti. Non salva neanche Prodi? Beh, buone intenzioni, ma non si governa mettendo insieme Ciampi, Bertinotti, Padoa-Schioppa e Ferrero. Mentre D'Alema non ha lasciato segno. Renzi però governa con Berlusconi, De Benedetti, ma non è detto che lo farà a lungo, risponde l'editore. E cosa pensa del patto del Nazareno? Ha fatto benissimo il Premier a stringerlo, e Berlusconi per sopravvivere non poteva far altro. È innamorato di Renzi e disgustato dal suo partito. A proposito delle aziende di Berlusconi, dice De Benedetti, penso che le venderà a uno straniero e per farlo non può avere il governo contro. In Italia nessuno è disposto a comprare le sue aziende, la TV generalista è messa molto peggio dei giornali. E poi vabbè, parla di altre cose, insomma, gli 80 anni, un'intera pagina di intervista di Aldo Cazzullo a Carlo De Benedetti. Vabbè, il titolo è questo: Renzi, energico e spregiudicato, mi ricorda il Fanfani degli anni 50. Ma qui abbiamo il Fanfani degli anni 2000. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, devo dire che pensavo di essere appellato in tanti modi, ma Fanfani degli anni Fanfani 2000... Fanfani ti manca, eh? Mi ha decisamente sorpreso. Ah, vabbè. Passerò il fine settimana a meditare su cosa significa questa cosa e soprattutto a vedere se ci sono gli estremi per quelle... Era un semplice collegamento dall'intervista. Che mi hai distratto, perché stavo leggendo queste prime modifiche alla legge di stabilità che segnaliamo oggi sul Sole 24 Ore. Si parla anche di un periodo più lungo di decontribuzione per i neoassunti, insomma misure di favore per quanto riguarda l'occupazione, che poi anche col Jobs Act è il nostro titolo principale di oggi. Senti, poi non è che devi pagare delle imposte, che quei due eurini te li stai tenendo lì, ma dovresti... Perché qui ci sono 527 miliardi, vorrei sottolineare i miliardi. non riscosso tra contributi, imposte, si sono accumulati negli anni e non so se tu magari ti sei scordato di pagare delle imposte. In realtà no. No, no, siamo sicuri e non facciamo brutte figure. Guarda, di fronte... Io penso di essere sicuro, ma te lo saprò dire magari se arrivano delle buste. Non... Vedremo, sappi poi che come sai che il fisco è sempre in movimento, il fisco non dorme mai, infatti sta preparando la tassa unica, l'abbiamo scritto, accidenti, l'hanno detto, la tassa unica per superare i mutaritasi IUC e tutto. Però quanto, gli ascoltatori non ci dicono come la vorrebbero chiamare, questo contest. Si vede che giustamente sono abbastanza già preoccupati di doverla pagare. E che dargli un nome gli sembra un po' troppo, però appunto l'abbiamo scritto tassa unica, vedremo che cosa succederà, dovrebbe partire però dall'anno prossimo, quindi non manca più molto tempo. Ah, già che siamo su Radio Fisco, scusa, devo fare un annuncio riservato qui, Radio Fisco, abbiamo il dato del TFR di ottobre nelle pagine di norme e tributi, chi deve capire ha capito. Alessandro, perfetto. Abbiamo il dato del TFR, è un messaggio che serve non a te, non a me, ma a chi deve operare in tal senso. E ci sarebbero molte altre cose di cui ci vorrei parlare, ad esempio che c'è stata una sostanziale assoluzione per le casse professionali che hanno modificato le regole per i loro assistiti, per i loro pensionati, ma si riferisce sempre ai normi tributi, e poi che ho scoperto che c'è la contraffazione anche dei Tosa Erba ed è tutt'altro che uno scherzo, perché sta danneggiando un settore abbastanza importante. Ne scrive Roberto Iotti oggi nelle pagine di Se ne scopre veramente una al giorno, eh. Si può contraffare un po' di tutto, anche forse Tosa Erba è un po' come il Fanfani, eh. Questa non me la sarei mai aspettata, il Tosa Erba contraffato. Ti ho sorpreso, ci ho messo un po' per arrivarci, ma ti ha sorpreso. Senti, attenzione quando attraversi la strada, perché guarda che la Cassazione ha detto che ci può essere in colpa anche del pedone. Pensavo mi volessi già augurare un investimento. Un investimento, casomai io sai che te li posso consigliare degli investimenti, sì. Ma non augurarteli, ci mancherebbe altro. Leggi tutto nelle pagine di norme e tributi e non solo su quelle, ma su tutto il Sole 24 Ore. Alessandro Milan, il falso 9 dell'informazione. Va bene, usiamo il modulo Barcellona. Allora, vedete che subito si sono scatenati i nostri ascoltatori. La tassa unica, c'è chi la vorrebbe chiamare tassa ladrona. Vabbè. Chi propongo l'acronimo ISIS, Luciano, non male. Oppure chi, vabbè, insomma, la pecorin tax, lasciamo stare. La tassa unica, il contributo unico unificato, cool. Oppure CCU, contributo comunale unico. Questo Alessandro, mi direi il più serio di tutti, contributo comunale unico, CCU, mandateci anche voi la vostra proposta per la tassa unica, come la chiamereste? Vabbè, intanto a proposito di tasse, cambia il canone della RAI, e sono anticipazioni che per la verità vengono propinate da anni, però stavolta pare che ci siamo. Il canone della RAI pagato insieme alla bolletta elettrica. Il governo accelera, così il Messaggero pagina 4. Claudio Marincola racconta che la riforma del canone RAI è pronta per andare in onda con l'approvazione di Renzi. Si pagherà con la bolletta della luce. L'obiettivo è garantire all'azienda di Viale Mazzini un gettito da 1 miliardo 800 milioni di euro e ridurre l'evasione fiscale. È più o meno il gettito attuale, ma chiedendo un importo inferiore ai 113,50 euro attuali, perché pagando più persone si può abbassare la quota fino a 75-80 euro in media. E ci saranno le esenzioni, verranno mantenuti i bonus per i meno abbienti, eccetera. Ma questa è l'intenzione di accelerare. Secondo il Messaggero c'è già il sì politico di Matteo Renzi. Mentre noi, dopo aver parlato con il ministro dell'ambiente Galletti, alle 8.30 parliamo di questa vicenda della panda rossa di Marino, non si ferma, ormai il destino in bilico di una panda rossa e di un sindaco, il Corriere della Sera Ernesto Menicucci, pensate che il Fatto Quotidiano ha fatto con Stefano Disegni, la striscia satirica in generale la si trova, credo, il sabato, la domenica, non ricorda, il caso multe, ecco la verità, è la panda che sabota Marino. Stanca di brutte figure, l'auto del sindaco di Roma si è ribellata al proprietario, così ha violato i varchi elettronici e si è parcheggiata da sola in sosta vietata. Insomma, siamo ormai all'ironia, alla satira, alla parodia, la questione in realtà è molto seria, ma noi ci chiederemo anche questo da alle 8.30, ma è davvero possibile che un sindaco in carica da un anno e mezzo possa rischiare il posto per una panda e 8 multe non pagate? O c'è anche un po' di accanimento mediatico nell'andare a scovare la panda di Marino? Non ho mai visto il parcheggio delle auto blu di altri politici. Comunque, sta di fatto che Marino ormai deve avere a che fare col Panda Gate. Che succede invece alla Curia di Milano? La Curia di Milano ha dovuto chiedere scusa. Ha dovuto chiedere scusa per una mail che improvvidamente era partita da un ufficio della Curia, dall'ufficio di Don Giambattista Rota, che gestisce un po' i rapporti tra la diocesi di Milano e le scuole, e questa mail è finita però per una manina consapevole sulle prime pagine di Repubblica. E allora la Curia si è scusata. In questa mail venivano schedate le scuole e per capire come insegnavano le questioni di genere. Insomma, titola Repubblica: la Curia scheda le classi pro gay. Una lettera segreta finisce su Repubblica, lettera a 6.000 docenti di religione della Lombardia: diteci in quali istituti si parla di omosessualità. Ovviamente scoppia la polemica dopo che questa mail finisce su Repubblica. La diocesi si scusa, come scrive Paolo Foschini sul Corriere della Sera. La comunicazione mandata sabato 8 novembre agli insegnanti di religione della diocesi di Milano da un collaboratore del servizio insegnamento religione cattolica è formulata in modo inappropriato e di questo chiediamo scusa. Così la Curia di Milano cerca di mettere una pezza a questa polemica che però divampa sui giornali. La Curia si scusa per la lettera ai prof sui gay e per Repubblica è proprio così: la Curia scheda le classi pro gay. Vabbè, questa vicenda chissà se può rientrare. Sappiate che arriveranno da luglio le multe a chi getta la cicca per terra, che siano sigarette e gomme. Questo lo scrive Italia Oggi. A pagina 28 Andrea Mascolini racconta che ci saranno multe fino a 150 euro per chi butta pure in acqua cicche, quindi per terra o in acqua. Ovviamente i comuni dovranno attrezzarsi per avere dei contenitori in giro per la città come i cestini dei rifiuti per raccogliere le cicche. Ma sappiate che soprattutto, racconta Libero, per il Tribunale di Bergamo a pagina 16, mettere un dito nella scollatura di una collega procace non è una molestia sessuale, è semmai ingiuria. È la vicenda che è capitata a un dipendente che, incrociando una dipendente collega donna che aveva la scollatura, è passato e zac, gli ha messo il dito nella scollatura, così all'improvviso. Ovviamente questa dipendente giustamente ha denunciato, sono rimasta sconvolta, ma il Tribunale di Bergamo ha deciso che non era molestia ma ingiuria. Questo a pagina 16 di Libero. Ma siamo al momento conclusivo, quello della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. E vi ricordo ancora che, se volete, intanto domenica alle 13 sarò alla Borsa di Milano per una rassegna stampa così dal vivo interattiva con voi all'interno di Book City. Venite a trovarci. Ma le zanzare golosone sul giornale, una pagina: le zanzare preferiscono pungere chi non si profuma. Ma chi se ne frega. 24 mattino. Sono le 8:20 minuti proprio in questo istante e qui a Radio 24 ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, ieri il capo della Protezione Civile Gabrielli, che era in visita a Lavagna nelle zone colpite dal maltempo, ha detto che un paese come l'Italia, che può stare di diritto tra i primi del mondo, non può permettersi di pagare dazi di questa portata, cioè morti, distruzioni per la pioggia. Per carità, tanta pioggia, ma pur sempre di pioggia stiamo parlando. Ne vogliamo discutere con il ministro all'ambiente Gianluca Galletti, che ringrazio e saluto. Ministro, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta ministro, lei ha promesso come governo 7 miliardi in 7 anni per contro il dissesto idrogeologico. Dove sono questi soldi? Ci sono già? Questa è la cifra che il governo intende mettere nel piano di prevenzione. Noi abbiamo due problemi, i fatti di questi giorni lo dimostrano, io sono molto d'accordo col prefetto Gabrielli. Abbiamo un problema di emergenza e su questo abbiamo già 2 miliardi e 300 milioni che, pensi, non siamo riusciti a spendere anche per colpa della burocrazia, cioè delle troppe leggi che abbiamo. Cioè, abbiamo pensato... questi soldi sì, ci sono. Sì, ci sono. L'esempio tipico è quello di Genova, no? C'erano i 35 milioni per fare gli interventi sul fiume Bisagno, erano bloccati perché a causa di ricorsi alla giustizia amministrativa non si è riusciti a incominciare le opere. Allora, io ritengo che questo sia davvero inammissibile. Abbiamo creduto per troppo tempo che molte regole tutelassero l'ambiente, molte leggi tutelassero l'ambiente. Non è così, bisogna semplificare il sistema. Troppa burocrazia. Troppe leggi, adesso troppe non leggi. È colpa delle persone, proprio colpa della produzione legislativa che abbiamo avuto. C'è anche una responsabilità politica, una responsabilità di chi doveva fare le cose che non le ha fatte, ma non è questo il momento di andare a cercare lo scaricabarile, no? Questo è il momento dell'assunzione della responsabilità. Allora, noi abbiamo già semplificato molto, prima dell'accadere di queste alluvioni, l'abbiamo messo subito al centro dell'attività del governo. Sull'emergenza queste risorse stanno già incominciando a trasformarsi in cantieri. Ecco perché poi abbiamo il problema che mi chiedeva lei, dei 7 miliardi. La prevenzione. Abbiamo un problema di prevenzione. Allora, io ho richiesto sui fondi di coesione territoriale 5 miliardi di euro. A questi 5 miliardi di euro si dovrebbero sommare 2 di cofinanziamento regionale. A questo punto arriviamo a 7 miliardi. In 7 anni, certo, perché in 7 anni bisogna anche poterli spendere. Però, ministro, lei ha detto dei soldi a questi microfoni 2 giorni fa. Il governatore Burlando ha detto: attendiamo con urgenza 200 milioni e su questo misurerò, proprio valuterò il governo Renzi da qui a fine anno. Arrivano, ci sono questi soldi io da sbloccare? Parlo spesso con il governatore Burlando, che è in prima linea in questo momento. Non facciamo confusione, i 200 milioni non c'entrano niente, né con i 2 miliardi né con i 7 miliardi. Chiaro. I 200 milioni sono per i risarcimenti, non per le opere, quindi è tutto un altro capitolo che ha poco a che fare con questo. Io so che l'impegno non riguarda chiaramente il mio ministero, questa parte, so che però faccio parte del governo, quindi sono responsabile al pari degli altri. So che la responsabilità del governo su questo tema c'è, non sono in grado di dire quante risorse riusciremo a dare a Burlando. Però dipende da che cosa, ne ha parlato con Renzi, Burlando ne deve parlare con Renzi? Qui c'è una procedura molto severa, c'è la dichiarazione di stato di emergenza e poi su quella dichiarazione di stato di emergenza c'è un finanziamento. Questa procedura è già avvenuta, mi pare che il governo abbia stanziato già una cifra su questo capitolo. Sì, perché ovviamente a un mese da quel diluvio su Genova lamentano il fatto che l'emergenza va affrontata con dei fondi, insomma, che sì, devono, guardi, arrivare. Poi nel caso di Genova è particolarmente delicato, per quello c'è l'attenzione del governo, perché lì c'è la ripetizione dell'evento, che è quello proprio che più distrugge le attività commerciali, le attività industriali, le famiglie. Cioè, pensi a un'attività commerciale o industriale che ha appena ripreso, appena casomai finito di pagare il mutuo, ce l'ha ancora in corso per la precedente alluvione, si ritrova di nuovo tutto distrutto. Appunto è per quello che loro attendono una risposta. Lei comunque dice una risposta ci sarà. Io le confermo che l'attenzione del governo su questo tema c'è. Senta, a proposito, c'è stata una polemica via interviste tra Gabrielli e Burlando sull'utilizzo dell'esercito. Per Gabrielli è tornare indietro i 50 anni. Lei, anche se è ministro all'ambiente, non alla difesa, ma che ne pensa dell'utilizzo dell'esercito per questa situazione? Ma io ho visto, essendo stato a Genova proprio i giorni dell'alluvione, ho dormito in prefettura, ho visto la popolazione come si è mossa. A Genova e in tutti gli altri casi, noi abbiamo un sistema di protezione civile che funziona davvero bene, abbiamo una popolazione straordinaria, nel senso che ci sono tantissime persone che si rimboccano le maniche in quell'occasione e in quelle occasioni incominciano a lavorare. Non sono in grado di dirle se l'esercito in quel caso è di ulteriore supporto o meno. Sicuramente da parte della cittadinanza c'è sempre una straordinaria partecipazione in questi casi. Lei ha detto che i condoni sono dei tentati omicidi, però sa, ministro, in 40 anni, 50 anni, quanti ce ne sono stati di condoni? Perché dobbiamo credere che questa volta sarà la buona, per cui non ci sarà mai più un condono? Ma io spero che dagli errori del passato si impari. Se no proprio non c'è più nessuna etica e nessuna regola. Allora è chiaro che quello che sta accadendo non è tutta colpa dei condoni, ci mancherebbe altro, però una parte è colpa proprio di quello, cioè noi abbiamo costruito in zone dove a parte dissesto idrogeologico meno sono pericolose. Cioè, se lei farebbe costruire, manderebbe suo figlio ad abitare in una casa costruita in un alveo di un fiume? Però no, ci sono molti italiani che lo hanno fatto. Ci sono, infatti io quello che dico in questi giorni è attenzione, non ci concentriamo tutti sulle opere e sui soldi, quello è importantissimo e va fatto, ma se noi non creiamo un patto culturale anche fra Stato, regioni, comuni e cittadini di rispetto del territorio, non ne verremo mai fuori. Ma a questo proposito, cioè, bisogna che ognuno faccia il suo compito. Certo, cioè bisogna di fronte che i comuni non diano le licenze per costruire negli alvei dei fiumi, che i cittadini non costruiscano abusivamente lì. Infatti, cioè, la domanda è questa: di fronte a una casa abusiva, ministro, secondo lei la colpa di chi è di più? Di chi la costruisce o dell'istituzione che lo permette? Se è abusiva, mi viene da dire che la colpa sia principalmente del cittadino. L'amministrazione ha la responsabilità di non intervenire dopo, questo sì, oppure di chiudere gli occhi. Quindi mi viene da dire che è una concomitanza di responsabilità. Oggi, però guardi, è sì, proprio un fatto culturale, mi creda. No, ma è chiaro, ci sono tantissime zone d'Italia dove l'abusivismo è ancora una realtà, purtroppo. Oggi leggevo sulla stampa che c'è un dossier proprio del Ministero dell'Ambiente secondo il quale tra il 99 e il 2008 ci sono 200 milioni che non sono mai stati spesi per la sicurezza del territorio, cioè soldi lì, eppure è la burocrazia di cui sopra, cioè sono le leggi di cui sopra. Questi qui fanno parte di quei 2 miliardi e 300 milioni che dicevo prima, cioè parte di questi 2 miliardi e 300 milioni vengono addirittura prima del 2010, poi nel 2010 furono fatti degli accordi di programma e finanziati e molti di quei soldi sono rimasti non spesi. Quindi è assolutamente quello che ricordavo prima. Allora, ministro, nel concludere mi faccio fare due domande non sul maltempo ma inerente al suo ministero. Lei, qual è la posizione del ministero sulle grandi navi a Venezia? Intanto so che anche Gabriele Muccino, regista, le avrebbe spedito una petizione per bloccare le grandi navi a Venezia. L'ha ricevuta o è stata solo annunciata? Io non l'ho ancora vista, può darsi però che sia arrivato, perché in questi giorni non le nego che la priorità la stiamo era dando altro, chiaramente al maltempo. Sulle grandi navi la posizione mia, ma più in generale del governo, è molto chiara. Noi abbiamo avviato, abbiamo messo in opera, abbiamo avviato il cosiddetto comitatone che è previsto dalla legge per Venezia. Cioè abbiamo convocato tutte le parti, diciamo così, e insieme abbiamo deciso di analizzare tutti i progetti che sono fattibili per evitare che le grandi navi possano entrare dentro la città storica di Venezia, i canali storici di Venezia. Siamo in questa fase, stiamo esaminando, cioè abbiamo sottoposto a una valutazione d'impatto ambientale i progetti che sono arrivati alternativi. Se posso dare un consiglio da comunicatore, forse comitatone è un nome magari brutto. Cambiatelo, perché fa molto il consiglio. Fa molto, effettivamente un comitatone sembra una cosa. No, fa molto pcus, sì, abbastanza. Per concludere, ministro, ma lei rimane personalmente, non tanto come ministro, come Gianluca Galletti, un nuclearista convinto? In passato l'è sempre stato, oppure sì, no? No, guardi, questa qui non è un tema all'ordine del giorno. C'è stato un referendum, a questo punto prendiamo atto del referendum, io come tutti i cittadini d'Italia sono convinto che quel referendum sia stato definitivo, quindi occupiamoci sui problemi che dobbiamo risolvere, non su quelli che potremmo avere. Va bene, buon lavoro, grazie al ministro dell'ambiente Gianluca Galletti, ministro all'ambiente, grazie per essere stato con noi. Dopo la pubblicità invece noi ci vorremmo concentrare su questa famosa, famigerata, incredibile Panda Rossa, è diventata il simbolo per una certa Roma, anche per una certa politica che ha trovato un modo per attaccare, evidentemente anche con la campagna mediatica molto pressante, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, con questa Panda Rossa che oggi sul Fatto Quotidiano diventa il centro di una striscia delle sue vignette di Stefano Disegni, è al centro della satira, della parodia, della accusa anche politica, perché Ignazio Marino non avrebbe pagato delle multe con la sua Panda Rossa, alla cui guida forse c'era la moglie, comunque forse non lui che va in giro in genere in bicicletta, ma questa Panda Rossa e le difese un po' goffe del sindaco di Roma è diventata il centro di una Panda Gate, di un'accusa politica che rischia addirittura di far cadere il sindaco della capitale. Ma davvero è possibile arrivare a tanto? Ne discuteremo tra poco. 24 mattino. Ho appreso e subito denunciato all'arma dei carabinieri un fatto molto grave. Qualcuno si è introdotto abusivamente nel sistema informatico del Campidoglio, della capitale d'Italia, protetto da sistemi di sicurezza, ed ha falsificato i dati relativi ai permessi di circolazione. Vabbè, questa è una delle verità un po' pasticciate, goffe, certamente, che il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha detto riguardo a quello che è diventato ormai per tutti il Panda Gate. E si parla non di un animale, ma del pandino rosso, della Fiat Panda del sindaco, che è al centro da giorni, anche oggi, di una campagna anche mediatica molto molto stringente per alcune multe prese entrando nella capitale, nella zona a traffico limitato, che il sindaco non avrebbe pagato. E qui viene da dire anche, ma com'è possibile che un sindaco abbia bisogno di un pass per entrare? Vabbè, insomma, parleremo anche di questo. E poi questa Panda è diventata il simbolo in qualche modo di Roma, il dagli al panda o dagli alla panda, la panda che viene seguita, la panda che viene pizzicata in divieto di sosta anche un paio di giorni fa, le denunce mediatiche, guardate, Marino non paga le multe. Insomma, il dato di fatto è che c'è un sindaco della più importante città italiana che rischia addirittura di decadere o comunque di cadere per una vicenda di multe non pagate e di goffe spiegazioni. Tutto materiale che fa gongolare, immagino, politicamente il senatore Andrea Augello del Nuovo Centrodestra, che saluto. Senatore, buongiorno. E lei ha presentato tra l'altro un'interrogazione parlamentare proprio su queste multe, ha fatto esplodere mediaticamente questo caso. Le chiedo intanto, politicamente lei può dare il giudizio che vuole su Marino, ma non è un po' esagerata questa cosa, su questo accanimento sulla Panda Rossa di Marino? Ma guardi, intanto io ho, diciamo, nella mia biografia ho motivi più soddisfacenti per gongolare di queste stupidaggini del sindaco di Roma. Io ho fatto solo un'interrogazione parlamentare, le assicuro che questo lo ha fatto tutto il sindaco. Perché Marino non rischia di cadere semplicemente perché ha tentato di non pagare, sta continuando a tentare di non pagare 600 euro di multa. Il problema di fondo è che Marino si è presentato davanti alle telecamere facendo un grottesco appello e presentando due diverse interrogazioni al sistema, spacciandole per la medesima interrogazione al sistema elettronico e dicendo che hanno rubato un permesso, ha raccontato una sciocchezza ai carabinieri, ha raccontato una sciocchezza alla magistratura. E questo che rende, come dire, molto fragile la sua posizione. Cioè, invece di spiegare la questione, a dire, che ne so, era al volante qualcuno, abbiamo preso 8 multe, adesso le pago, effettivamente ho sbagliato qualcosa, si è ingamberato in una serie di spiegazioni pasticciate. Se finiva in 5 minuti, se lui molto semplicemente diceva la verità, e cioè mi sono dimenticato di rinnovare il permesso, in effetti da chi stava guidando mia moglie o chi diavolo guidava questa macchina. comunque per evitare polemiche sanzionerò i responsabili del ritardo, ma intanto pago le multe. Questa faccenda non andava nemmeno in cronaca di Roma, penso. Sta di fatto che però questa faccenda ormai è deflagrata. Oggi sul Fatto Quotidiano Stefano Disegni, che di solito fa la sua striscia di satira il sabato, credo la domenica, invece la mette il venerdì, e il pandino tutto matto è il protagonista di quella che è una vicenda che ormai esce dai confini anche della politica. Voglio salutare Antonello Caporale, collega del Fatto Quotidiano. Buongiorno Antonello. Buongiorno. Allora, insomma, questa vicenda, anche la tua posizione è chiara, a dire un po' come ha detto il senatore Augello, è lo stesso Marino che si è messo un po', come dire, in questa situazione con le spiegazioni, però ti chiedo, c'è accanimento mediatico oppure quando il protagonista di Roma in questi giorni diventa una panda rossa oppure no? Sai, io ho la percezione netta che essendo Marino estraneo a Roma c'è una sorta di rigetto, la capitale del che te frega non riesce a capacitarsi del perché abbia alla guida un signore che pedala quando l'opinione pubblica è tutta motorizzata. E una città labbrata dalle tangenti, noi ricordiamo una settimana fa è partita a singhiozzo la metro C. La metro C è il cantiere che in assoluto ha succhiato più soldi in Europa ed è il cantiere che in assoluto ha trovato più caviglie, più negoziazioni, più arbitrati e più arbitri, producendo più o meno 700 milioni di varianti in corso d'opera. È il cantiere che non aveva una data di consegna di lavori. Bene, e ne dico l'ultima delle mille e una notte di Roma. In tutto questo, e quindi con una riserva a sinistra come a destra, tra gli amici o i compagni del Partito Democratico, che naturalmente odiano Marino, e i suoi avversari, amici e compagni di Augello, che naturalmente odiano Marino, questo signore che pedala, sì, ed è un po' presuntuoso, un po' permaloso, un po' ipercinetico, un po' bizzarro, viene rigettato, viene rigettato. Infatti il modulo della delinquenza criminale si riduce alla panda, che è un'utilitaria, e si riduce alle 600 euro di multa. Certo, sì, l'onorevole il senatore Augello è arguto e punta il dito su un fatto inequivocabilmente, se venisse confermato, grave, che è la manomissione del sistema. Sì. Ma come Augello documenta la manomissione? Con una altra manomissione, un suo amichetto ha manomesso il sistema ed egli ha prodotto la prova provata, la prova regina, che questo Marino è indegno per Roma. La capitale del che se ne frega, sì, che te frega a te, io sono residente ma non, non romano, nativo, non nativo, non ce la fa, perché questo è un sindaco etico, vuole dirci come si campa, come si mangia bene. Si è un sindaco, insomma, che Roma respinge. Augello, vabbè, qui entriamo anche un po' nella, oltre che nella politica, nella sociologia, se vuole. Lei forse si occupa soprattutto di una opposizione politica, immagino, al sindaco Marino. Però dà fastidio. Effettivamente le chiedo questo, senatore Augello. Sa, per tanti anni abbiamo parlato, non so, dei politici associati alle auto blu, alla casta. Qui paradossalmente diventa una colpa girare col pandino. No, dunque, prima di parlare di questo io vorrei togliere un attimo da questo afflato letterario la figura del sindaco, che si è perfettamente inserita nella Roma che dice Caporale. Faccio alcuni esempi. Dunque, metro C, l'ultima transazione è stata proposta dall'assessore in proprio ed è oggetto delle attenzioni della Procura della Corte dei Conti, tanto per essere chiari. Allo stesso identico modo, su fronte, come dire, delle posizioni politiche chiacchierate, c'è un'inchiesta devastante in questo momento, ma comunque innocente fino a prova contraria, su un deputato del centro-sinistra che è stato assessore alla regione, e questo deputato del centro-sinistra è stato assessore alla regione, Di Stefano si chiama, era primo dei non eletti alle elezioni politiche. Per farlo entrare in Parlamento, cosa che sicuramente gli gioverà durante l'inchiesta, Marino ha nominato assessore e fatto dimettere dal Parlamento una donna, e non si poteva che mettere una donna eletta a Roma in giunta, perché sennò Di Stefano non entrava. Quindi la verità è che Marino non è affatto questo... Non è fuori dal sistema romano, lei dice. No, non è fuori dal sistema perché a volte non ne capisce, cioè può, come dire, trovarsi in delle situazioni per non aver compreso il fatto, ma in ogni caso certamente è una persona che ha cercato in tutti i modi di entrare in questi giochi col PD, tant'è vero che poi Di Stefano votava alle elezioni per alcuni candidati che non erano estranei dalla proposizione alle europee, che non erano estranei dalla proposizione di Marino alle primarie. Quindi, detto tutto questo, a me francamente non me ne importa proprio nulla del problema dei rapporti del sindaco col PD o di una sociologia estrema da applicare al rapporto tra la città e Marino. Qui il problema è molto semplice, io ho fatto un'interrogazione perché lì risultava semplicemente che c'erano dei ricorsi e quindi sarebbe stato incompatibile con la figura di sindaco, mentre stava a approfondire solo questo aspetto, soprattutto questo aspetto. Ma questo aspetto, che tra l'altro riprendiamo da qui dopo il traffico, bisognerà capire dove porterà, perché io voglio capire dal senatore Augello se davvero c'è la possibilità, se venisse accertato che Marino ha detto qualcosa che non va, che possa decadere come sindaco. Poi questo è l'elemento politico che conta. Certo, non è che le coincidenze vadano molto bene al sindaco, che ieri era a Londra per parlare a un convegno, immagino fissato da tempo, sulla mobilità in macchina nelle nostre grandi città. Insomma, a volte la sfiga ti insegue. È tutta una bufala il suo dossier che ha consegnato ai carabinieri, signor sindaco. Signor sindaco, mi sembra che non è vero che un hacker ha cancellato il suo permesso ZTL temporaneo. Quel permesso che lei che lei diceva fosse stato cancellato, signor sindaco, l'abbiamo trovato, glielo vogliamo fare vedere. Sono le iene. Perché non mi fate fare una domanda normale? Che insegue il sindaco Ignazio Marino, che tra l'altro rischia quasi di cadere dalla sua proverbiale bicicletta. Cioè, voi capite che tutto sta diventando davvero forse anche surreale. Senatore Augello, glielo chiedo, ma lei punta, cioè secondo lei ci sono le ipotesi di arrivare alle dimissioni del sindaco Marino? Rischia di cadere su questo? Io credo che se a Londra o a Parigi un sindaco fosse andato a Parigi alla gendarmeria portando un dossier falso, anche se inconsapevolmente, perché potrebbe benissimo essere che il sindaco non si è reso conto, è stato portando un dossier falso, ma questo aggrava la situazione. Come ho detto, il problema è se abbiamo di fronte un truffatore, abbiamo di fronte Mr. Bean, insomma. In ogni caso, credo che non sarebbe durato un giorno, perché c'è un limite, diciamo, c'è un limite al paradosso. Poi questo accade in una città dove, attenzione, le tasse sull'asfalto sono andate alle stelle. Non è che la gente è appassionata di questa vicenda perché è matta. Io se sono un signore che va a lavorare a Roma, che ne so, al tribunale, per esempio, con la macchina, mi trovo, prima pagavo 70 euro al mese per le strisce blu, adesso ne pago 200. No, ma questo sì, però allora che la gente sia arrabbiata, che la gente si appassioni anche a queste cose che poi toccano il portafoglio, questo c'è. Certo, io continuo a dire, vorrei sentire anche due ascoltatori, poi torno alla caporale, continuo a dire che effettivamente il paradosso è di un sindaco che potrebbe avere tra l'altro diritto a 3 pass, mi risulta, per la ZTL, ne ha chiesto solo uno, ha un pandino rosso invece che un'auto blu, cioè si sposta in bicicletta e paradossalmente contrappassa, rischia di finire impallinato politicamente proprio per una pandina blu. Comunque, Antonio da Treviso, buongiorno, che ne pensa lei? Buongiorno Milan. Sì. Niente, volevo dire solamente che sono stufo di sentir parlare della panda rossa del sindaco Marino. Io manderei a casa non il sindaco Marino, ma lo staff del sindaco Marino e il suo capo di gabinetto. I vigili urbani che hanno rilevato l'inflazione col ZTL, è una cosa automatica. Prima cosa, è la prima multa, dovevano avvertire il sindaco e il suo staff che c'era questa multa, per cui rimediavano. Ma tra l'altro c'è da dire che il sindaco ha diritto allo ZTL, però gli era scaduto. Appunto per questo dovevano avvertirlo. No, però sa Antonio, probabilmente anche caporale che dice che c'è un rigetto da parte dei dipendenti verso un sindaco che non è di Roma. Vabbè, però Antonio, la questione è anche non tanto che lui non abbia pagato le multe, la questione sono i pasticciati tentativi di, come dire, mettere una pezza dopo a dire l'hackeraggio, le cose, mi sono entrate. Invece magari se avesse detto appunto così: oh, mi era scaduto lo ZTL, non avevo fatto in tempo, mi sono arrivate le multe, non le ho pagate, è vero, sistemo tutto, magari finiva in 5 minuti. Claudio da Varese, buongiorno Claudio. Che buongiorno, io sono rimasto un po' basito dalla sua anteprima sul sindaco Marino, perché la seguo sempre sulle mani strette sul volante, poi succede qualcosa, addirittura si deve dimettere, oddio. No, addirittura è una domanda. Parliamo sempre della moralità dei politici, di quelli stranieri che si dimettono per i contributi non pagati a una colf. Succede a uno dei nostri politici ed è sempre... ha sempre giustificato la fine. No, guarda, io non giustifico niente. No, non dica così, che sembra che sennò sono lo zerbino dei politici, che è una cosa che mi fastidisce molto. Questo, però l'assicuro che quando l'ho sentita ho detto oddio, ha tenuto le mani sul volante. Come se fosse una cosa ridicola, no? Non ha pagato. Che è ridicola, infatti siamo qui a parlarne, cioè poi siamo qui a parlarne, Claudio, però accetto la sua critica e la giro anche a Antonello Caporale. Antonello, mi critica l'ascoltatore che sto sminuendo, cioè questa cosa che invece l'ascoltatore ha puntato il dito esattamente nel centro di gravità della questione. Col Marino noi utilizziamo il modello scandinavo tedesco. Il rigore teutonico è un euro e 100 euro non è la somma, è la qualità dell'infrazione. Dentro però, dobbiamo ricordarcene, un sistema che afferma con moderazione, che chiama un pregiudicato a riscrivere la Costituzione. Questo ce lo dobbiamo ricordare, perché noi non dobbiamo essere, come dire, asimmetrici. Noi abbiamo di ieri i titoli dei giornali. Renzi e Berlusconi firmano il patto. Sì. Il patto è la legge elettorale e la riforma della Costituzione. È un pregiudicato, uno dei contraenti, con un gravame giudiziario inenarrabile, e non dico altro. Allora, perché io un po' mi arrabbio? Non ho alcuna simpatia per il partito di Marino e alcuna simpatia per alcune sue operazioni, ma messa una sull'altra, tutti i pasticci che fa, le cose che dice, io le sottoscrivo tutte, non sono equivalenti al dato globale di una città che lui ha raccolto fallita. Con milioni. Qui si utilizzava un sistema, per esempio all'ATAC, un gruppo, una cerchia, si batteva da solo e si vendeva da solo e si faceva da solo fondi neri. Qui a Roma il più grande monnezzaro, Malagrotta, ha fatto fortuna con la monnezza, capitale d'Europa. Allora, quando noi diciamo le cose, va bene Augello a stigmatizzare un dato di per sé rilevante, fa malissimo però a non ricordare dove eravamo e dove un pochino anche la sua parte politica, un pochino, secondo me parecchio, anche la sua parte politica ci ha forzato. La transazione sulla quale di Roma metropolitana, Metro C, è una transazione che è stata dichiarata, qui è successo un casino, voi non ricordate, sì, ma si sono bloccati i lavori perché costruttrici, certo, appaltatrici, che avevano inguattato un sacco di denaro, hanno detto se non ci dai i soldi non avanziamo più, e gli operai disperati. No, ma è chiaro, tutto tu dici in tutto questo marciume un pochino fa sobbalzare sulla sedia, ma che aggiungo io, non è una giustificazione, non è che sto dicendo se Marino non ha pagato delle multe è giustificato. Però per rispondere appunto all'ascoltatore di Varese, ancora voglio dire, fa un pochino specie, non so, vedere che la panda di Marino adesso è pedinata da fotografi per vedere dove va. Io l'ho detto due giorni fa, ho parcheggiato in divieto di sosta, vabbè, non faccio il politico, ho parcheggiato in divieto di sosta, se qualcuno mi avesse messo, no, quasi tutte le notti sotto casa, perché esco alle 5 del mattino per non fare troppa strada a Milano, se uno mi mettesse la foto in prima pagina, tutti i giorni sto in divieto di sosta. E che diamine, magari un po' di accanimento c'è. Tutto qui. Ma comunque la vicenda non è finita, il Panda Gate continuerà. Ringrazio il senatore Andrea Augello del Nuovo Centrodestra, così come Antonello Caporale del Fatto Quotidiano. E ci fermiamo qui e ci ritroviamo lunedì alle 6.30. Ciao. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.